non è una, come dire, reazione polemica alla scelta del presidente Monti, che rispettiamo. Il problema è i tempi, il timing, come mi hanno detto al CIO, e cioè dire no 12 ore prima che scadeva il termine della presentazione delle garanzie, diciamo che ad un CIO che era in attesa per Roma, forse più per la debolezza di alcune candidature, e per cui aspettavano, come dire, c'era grande attesa. Francamente, ai vertici, con una situazione di questo tipo che ha provocato qualche imbarazzo, non me la sono sentita. Presidente, ci sono margini per un ripensamento? No, guardi, io mi ha parlato proprio Rog oggi due volte. Ho pensato a Rog che io ho scritto nella lettera che la decisione è irrevocabile. Si è sentito un po' tradito anche da parte degli italiani, che una volta presa la decisione poi da parte del Premier e del Governo, in molti sondaggi si sono dichiarati comunque favorevoli all'addio al sogno olimpico di Roma 2020? Guardi, io lo considero un favore espresso nei confronti di molti, che ha un tipo di consenso che secondo me qualunque cosa avrebbe deciso sarebbe stato sostenuto.